in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani, l'ultima domenica di novembre. Siamo già quindi alle porte, anzi siamo, visto l'anticipazione che abbiamo avuto con questo Black Friday, della stagione natalizia. Cominciamo però dal Sole 24 Ore, che si concentra sulla riforma della giustizia. È una delle riforme più importanti che questa legislatura ha cercato di portare a termine. Ancora non si sa se sarà completata nei tempi giusti. In ogni caso, ok del governo all'emendamento in manovra. Questo è un primo, un assaggio, perché sulla giustizia civile c'è questo progetto della riforma per dimezzare i tempi. Sapete che ancora più forse che la giustizia penale, soprattutto chi viene in Italia, chi non conosce il nostro paese, è spaventato dai tempi della giustizia civile. Questa era l'apertura del Sole 24 Ore. Il Corriere della Sera, invece, come molti altri giornali, si concentra da una parte su quello che è successo ieri a Roma per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e contemporaneamente, tra l'altro, in Italia c'è stato questo evento tra il mediatico e il politico, con la Camera aperta solo alle donne, e in Francia invece l'annuncio di una misura molto concreta da parte di Macron, il presidente Emmanuel Macron: multe a chi molesta le donne in strada. Questo è il piano di Macron contro le violenze, e questa è anche l'apertura del Corriere della Sera, che poi però ha un suo approfondimento di Dario Di Vico alle pagine 5 e 6 sul fisco, definito il caos di leggi e decreti. Pensate, in un anno, calcola questa inchiesta del Corriere della Sera, 2000 pagine di norme nuove. Fotonotizia dedicata però all'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. C'è stato un naufragio ieri davanti alle coste libiche, i morti sarebbero oltre 30. Il Corriere della Sera, ve lo segnalo subito, dedica le pagine 2 e 3 alla questione della violenza contro le donne, molto incentrate appunto su quello che è successo in Francia, che è molto più concreto di quello che è successo invece in Italia, che è stato un grande bla bla, grandi annunci, a partire naturalmente dal presidente della Camera Laura Boldrini. Però ripeto, misure concrete, per vedere delle misure concrete bisogna andare in Francia. La Repubblica, fake news, lite PD 5 Stelle, questa è l'altra questione politica di ieri. C'è stato l'intervento di Di Maio, che a fronte delle inchieste giornalistiche, persino da parte degli Stati Uniti, su come in realtà alcuni blog che in qualche modo fanno capo al Movimento 5 Stelle diffondano delle fake news, Di Maio ha detto: siamo i primi a essere danneggiati, e addirittura vorrei che vigilasse l'OSCE su questa questione. Eugenio Scalfari, come sempre la domenica, si esercita con il suo editoriale. Sapete, è stato protagonista di una polemica molto aspra in questi giorni, Scalfari, perché a Ballarò, si chiama ancora Ballarò? Sì, Ballarò, la trasmissione di Floris, non si chiama più Ballarò, Ballarò è rimasto su Rai 3, era su Rai 3, ora non c'è più neanche quello, di martedì, ecco, la trasmissione di Floris sulla 7, ha detto che eventualmente tra il populismo del Movimento 5 Stelle e il populismo di Berlusconi, sceglierebbe il populismo di Berlusconi perché testualmente credo ha più sostanza. E apriti cielo a queste dichiarazioni, sono state poi parzialmente smentite. Francamente mi aspettavo che forse ci tornasse per fare chiarezza definitivamente, avendo a disposizione questo spazio gigantesco ogni domenica sul giornale che ha fondato, e invece no. Il titolo dell'editoriale di questa domenica è «Il Papa, l'Italia, l'Europa e il senso della memoria». L'Espresso, in edicola come ogni domenica con la Repubblica, ha una copertina dedicata alle elezioni del 2018, le elezioni politiche che dovrebbero essere, dovremmo presto sapere quale sarà la data esatta, ma quasi certamente in primavera. L'Espresso, per così dire, anticipa uno dei tanti temi che saranno alla base delle elezioni, e cioè che cosa ha sostituito il finanziamento pubblico dei partiti, che è stato abolito, ma è stato sostituito da altre modalità di finanziamento. Chi paga, appunto, chi manipola, tutti i nomi dei finanziatori dal 2008 a oggi, le infiltrazioni nella rete, così una politica privatizzata e senza regole affronta racconta la prossima corsa al voto. La Stampa ha una doppia copertina. La prima è dedicata in un certo senso all'Europa, all'Italia e al ruolo che l'Italia ha in Europa e nel Mediterraneo. Il titolo è appunto la nuova mappa del Mediterraneo, perché l'occasione è questa, questo convegno, la conferenza MED che si terrà da giovedì fino a sabato, dove, dice la Stampa, Roma sarà la cerniera fra il nord e il sud. Ministri ed esperti mondiali si confronteranno. Sarà l'occasione per affrontare le sfide e cogliere le opportunità di sviluppo delle regioni attorno al Mare Nostrum. La copertina vera e propria però della Stampa è molto simile a un titolo molto simile a quello di Repubblica, Falsità online, la pista dei siti che porta a grillini e leghisti. Come sempre però l'editoriale della domenica del direttore della Stampa Maurizio Molinari è diverso. Abbiamo visto settimana scorsa era dedicato ai ai senza tetto, all'emergenza dei senza tetto negli stati americani di California e Washington e Oregon, e questa settimana invece si concentra sulle città intelligenti. Qui a Radio 24 ne sappiamo qualcosa grazie al programma Smart City. Il titolo di questo editoriale di Maurizio Molinari: la tecnologia che progetta dove vivremo. In prima pagina però anche la questione della giornata di ieri, della violenza contro le donne, un articolo di Linda Laura Sabbadini, anche in questo caso una voce conosciuta a Radio 24, interviene spesso durante il programma di Maria Latella, una statistica, ma una donna che affronta i numeri anche immergendoli, leggendoli con gli occhiali anche della sociologia e della politica, dei cambiamenti culturali della società, e poi il piano di Macron per salvare le donne. Quindi anche in questo caso un editoriale molto concreto di una studiosa che si occupa di questi temi da sempre, e poi una questione altrettanto concreta, il piano di Macron. Ci lasciamo un attimo per una breve pausa, con meteo compreso, ci ritroviamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali. La Stampa, come vi dicevo, dà molto spazio agli eventi di ieri, soprattutto con le notizie che arrivano dalla Francia di questa legge annunciata da Macron per combattere le molestie sessuali. Ma vi segnalo anche l'articolo di Carlo Pizzati che parla di quello che della situazione in India, lo trovate a pagina 13. In servizio le poliziotte antistupro armate di Kalashnikov. La Nuova Delhi, la capitale dell'India, è anche la capitale mondiale degli abusi, e quindi è stato deciso di dare vita a questa squadra di intervento. Sono 600 motocicliste. Il Messaggero si concentra sulla grande manovra fiscale con il maxi emendamento. Secondo le indiscrezioni del Messaggero, la famigerata web tax, costruita per tassare i colossi della net economy, quindi da Google a Facebook ma anche Amazon, slitterebbe al 2019. Altro intervento nuovo, annunciato ma che adesso sarebbe confermato: meno vincoli agli spot telefonici. Vi segnalo la polemica che vede opposti il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ieri ha rilasciato un'intervista, l'altro ieri, che è apparsa ieri sul Messaggero, e dove ha detto alcune cose sull'atteggiamento del sindaco Virginia Raggi sul tavolo che è stato convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico per affrontare, se non risolvere, i problemi economici di Roma. E il sindaco Raggi ha subito risposto contestando le cifre. Il titolo del Messaggero è: Raggi e Calenda, scontro sui fondi e tempi per Roma. Sui numeri dovrebbe essere difficile avere opinioni diverse, e invece, come sempre in Italia, anche sui numeri si hanno opinioni diverse. L'Avvenire ha un'apertura completamente diversa. In Medio Oriente le luci e le tenebre. Da una parte si ricorda la strage nella moschea con queste 300 vittime per mano dei terroristi dell'ISIS, e poi si dà anche notizia di questa ripartenza di un piano in cui è coinvolto l'Avvenire per le popolazioni perseguitate, con le donne al centro. Ma molto spazio sull'Avvenire anche all'imminente viaggio di Papa Francesco, che toccherà anche il Myanmar e si sicuramente si parlerà anche della questione dei Rohingya, la minoranza perseguitata. Al via stasera, scrive l'Avvenire, il viaggio, Francesco in Myanmar, grande regalo a una chiesa di confine che cerca pace. Poi andrà anche in Bangladesh. E a pagina 7 dell'Avvenire trovate tutte le tappe di questo importante viaggio di Papa Francesco, prima in Myanmar e poi a Bangladesh, dove resterà fino all'8 di dicembre. Libero, impariamo da Israele a scacciare gli africani, questo è il titolo di Libero. C'è un modo per respingere gli immigrati. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un piano del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che si prepara ad allontanare 40.000 profughi spedendoli in un paese a caso. All'estero nessuno rispetta i trattati internazionali in base ai quali ci riempiono di rifugiati. Io trovo un'assenza di, non so come dire, di logica, se vogliamo, in questo. Primo, perché non vuol dire che se qualcuno non rispetta i trattati non dobbiamo rispettarli neanche noi. Poi che cosa significhi rispedire dei profughi in un paese a caso? Anche qui. Poi c'è una foto della Boldrini che purtroppo non ha la dote della simpatia, e questo appare spesso anche nelle fotografie che la ritraggono, come questa scelta ad arte naturalmente da Libero, che non è mai tenero con Laura Boldrini. Infatti il titolo è «Comizio della Presidente, la Boldrini parla alla Camera, le donne sbadigliano». E devo dire che poi a pagina 2... a pagina 3 di Libero c'è un articolo di a pagina 2 c'è un articolo di Antonio Socci sul fatto che in un presepe di Comunione e Liberazione non ci siano più Gesù e i tradizionali personaggi del presepe, ma ci siano invece i profughi. E questo è l'articolo a pagina 2 di Antonio Socci. Dal presepe Cellino spariscono Gesù e Maria. Ma c'è anche un articolo di Filippo Facci sulla questione, sulla manifestazione che c'è stata ieri alla Camera, e devo dire che sono perfettamente d'accordo, perché questo appello della Boldrini, uomini che non siete violenti, fate qualcosa, non so, è come dire a chiunque non si macchi di un delitto, fate qualcosa. Io ci sono le persone che uccidono, ci sono gli omicidi o ci sono i ladri, e è come se qualcuno dicesse: non omicidi, fate qualcosa, non ladri, fate qualcosa. No, noi rispettiamo la legge, chi non la rispetta deve essere punito, ma deve essere punito come si appresta a fare la Francia, con delle leggi e non con dei comizi. Tra l'altro, appunto, purtroppo Laura Boldrini, non avendo il dono della simpatia, rischia quasi di essere controproducente quando usa quei toni e anche quei termini per i suoi proclami. La Verità, africani con la pensione INPS in Africa, è un'inchiesta della Verità, scovati 500 furbacchioni solo nell'ultimo mese. E questa appunto è un'inchiesta sull'ennesima malversazione che si può fare in Italia delle leggi. Il Fatto Quotidiano prende spunto dal fatto che stasera Silvio Berlusconi sarà ospite di Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, e il Fatto Quotidiano invita Fazio a ricordare a Berlusconi i 3 processi per corruzione e l'accusa di strage. Io scommetto che Fazio non raccoglierà questo invito, ma sarei molto contenta se invece stasera mi smentisse. Il Giornale, oddio, si è ristretta la Leopolda, il riferimento naturalmente è alla kermesse che Matteo Renzi si era inventato qualche anno fa, che si tiene una volta all'anno a Firenze. Le prime erano state un grande successo, era ancora il tempo poi del famoso 40% del PD alle elezioni europee. Ora, secondo il Giornale che ne fa questa lettura, tutti mollano Renzi, la kermesse disertata da VIP e big del partito. E invece a Milano, scrive il Giornale, dove c'è stata una sorta di contro Leopolda organizzata da Maria Stella Gelmini, ex ministro dell'istruzione in uno dei governi Berlusconi, a Milano Forza Italia fa il pieno di imprenditori. Ultima prima pagina è quella del manifesto, brave ragazze, con un'immagine di in particolare delle scattata alle ragazze più giovani che hanno partecipato alla manifestazione ieri a Roma in occasione di questa giornata contro la violenza sulle donne, e era pieno di palloncini rosa. La foto è molto bella e il manifesto sceglie anche appunto di mettere uno sfondo rosa su questo sommario. Il movimento contro la violenza sulle donne invade le strade di Roma in 150.000 da tutta Italia per una manifestazione imponente e festosa. Ragazze e ragazzi vestiti di colori e di cartelli mostrano il volto pacifico e la forza delle nuove generazioni. Passiamo velocemente alle pagine interne dei quotidiani. Torniamo sul Sole 24 Ore, molto interessante l'articolo di apertura di Nova, il supplemento dedicato alle tecnologie, all'innovazione del Sole 24 Ore, l'articolo di Francesca Cerati, una genetica a caro prezzo. Il riferimento è ai nuovi farmaci appunto che sono che partono dalla ricerca genetica e quindi dovrebbero almeno in teoria essere molto più mirati e più efficaci di quelli che usano altri meccanismi. Però i farmaci più costosi della storia, perché sono anche i più costosi, sono la miglior cura che la medicina possa offrire oggi. La terapia genica sembra essere entrambe le cose. E a proposito di scienze e di ricerca, bellissimo a tu per tu di Beda Romano con Michael Guyon, che è un astrofisico, e il titolo di questo incontro è "La scienza non è affatto noiosa". È un astrofisico belga che ha individuato 7 pianeti simili alla Terra che orbitano intorno a un'altra stella. Pensate appunto l'idea che ci possano essere pianeti simili al nostro per caratteristiche che magari ospitano una qualche forma di vita. In questo bel dialogo, tra l'altro un uomo abbastanza giovane, del 1974, era un militare di carriera, poi ha iniziato l'università a 24 anni e ha racconta a Beda Romano la storia di queste sue più recenti scoperte. Ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico, poi ci ritroviamo ancora per qualche segnalazione dalle pagine interne dei giornali e per i supplementi della domenica. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Qualche segnalazione dalle pagine interne dei giornali. Su Repubblica ho trovato un'inchiesta che Alessandro Milan avrebbe probabilmente definito un articolo da mani sul volante. L'inchiesta di Marco Ruffolo, la trovate a pagina 4 di Repubblica, "Manager pubblici, il premio infinito. Gli incentivi dipendono dai traguardi raggiunti, il problema è che la pubblica amministrazione si valuta da sola e promuove a pieni voti tutti i suoi dirigenti". Come sia possibile che appunto tutti meritino una promozione in una pubblica amministrazione che purtroppo, come sappiamo, ha tanti difetti, resta un mistero. E poi, visto che abbiamo parlato della scoperta di pianeti dove ci sono condizioni simili a quelle del nostro, un'intervista che trovate invece a pagina 21 della Repubblica di Matteo Marini al direttore dell'Agenzia Spaziale Europea, Johann Dietrich Werner, che dice: scordatevi Marte, sapete che è il sogno per esempio di Elon Musk, il fondatore di Tesla, ci aspetta la Luna. Quindi il direttore generale dell'Agenzia Spaziale smentisce Obama e Musk: per il pianeta rosso non siamo pronti, ma rilancia una base internazionale sul nostro satellite. Ma veniamo alle pagine della domenica, quindi supplementi domenicali. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola "La carta". O metti il fuoco nella carta o metti la carta sul fuoco. Tempo fa l'Università di Bucarest mi ha assegnato la laurea ad honorem, un titolo che mi è caro perché sono legato spiritualmente ai grandi autori o artisti che da quella terra sono venuti e che ho letto e ammirato con passione, da Ionesco a Noica, da Cioran a Eliade e a Brancusi. Scopro così un'antologia dell'aforisma romeno contemporaneo e trovo di uno scrittore che non conosco, Teodor Codreanu, nato nel 1945, questo motto folgorante: Kafka comparava i veri libri a una piccozza che colpisce il ghiaccio del cervello e del cuore. Qui invece è il fuoco a essere in azione e diventa un monito per me che tanto, troppo, ho scritto e per tutti quelli che sono convinti di avere dentro di sé la sacra fiamma dell'ispirazione. In realtà sarebbe meglio che ci rivolgessimo più spesso con umiltà al fuoco del camino a cui votare pagine senza fuoco. Ma la copertina vera e propria è una lunga recensione di Stefano Salis a un bellissimo libro appena uscito da Einaudi che si intitola Florilegium, tesori botanici del primo viaggio di Cook. Lo ha scritto Joseph Banks e il titolo appunto della recensione è Florilegio dell'altro mondo, i tesori botanici raccolti da Joseph Banks durante il primo viaggio agli antipodi che si svolse alla fine del 1700 di James Cook, favolosa collezione di piante dall'Australia e dalle isole del Pacifico in una sontuosa edizione internazionale. Ma poi vi segnalo, visto che abbiamo parlato dell'emergenza stupri sulle donne a Nuova Delhi, che è la capitale mondiale degli stupri, così abbiamo letto sulla stampa, un colloquio a pagina 2 del Domenicale di Eliana Di Caro con Bina Agarwal, che è una docente di economia in India e che racconta il coraggio delle donne indiane. L'economista offre una fotografia della condizione femminile del suo paese. Ci sono stati progressi dall'indipendenza, ma restano forti disuguaglianze, il pericolo delle violenze e un netto divario nord-sud. E poi vi segnalo un altro bell'articolo invece sulla era atomica, sulla nascita dell'era atomica, l'alba del nucleare, lo racconta Vincenzo Barone in occasione del 75esimo anniversario della pila atomica, è una sorta di ricordo di festeggiamento di Enrico Fermi, definito The Pope of Physics, il Papa della fisica, si svolge all'ambasciata d'Italia a Washington, 75 anni fa Enrico Fermi a Chicago metteva in funzione la pila atomica, il primo appunto reattore. Molto bello questo reportage di Nicole degli Innocenti, la montagna sacra degli Etruschi, rifugiarsi sul vulcano. La campagna intorno alla Miata punta a un turismo ecosostenibile tra agriturismo e transumanza, quindi questo ritorno alla natura. Ieri sul Washington Post è apparso un articolo molto interessante dove si diceva che sempre più giovani americani decidono di tornare, anche magari quando hanno fatto studi universitari, di tornare all'agricoltura, naturalmente in chiave moderna, ma pur sempre di ritorno a questo antico mestiere dell'agricoltore si tratta. La lettura, il supplemento della domenica del Corriere della Sera, come sempre affida la copertina a un artista, questa settimana è Alberto Casiraghi, molto carina questa copertina, molto poetica, e all'interno vi segnalo un reportage, potremmo dire un reportage vecchio stile dello scrittore Alessandro Piperno da Amatrice. Naturalmente sappiamo il comune più colpito dal sisma dello scorso anno, e racconta Alessandro Piperno che, combinazione, lui abita a Roma, ma dice: ho trascorso ad Amatrice ogni agosto della mia vita fino alla prima giovinezza, la grande casa capace di assorbire il parentado quasi al completo anche durante la congestione estiva era stata acquistata dal mio nonno materno, esponente della fiera schiera di amatriciani audaci, realizzazione di un sogno e certificazione di un'ascesa sociale. Quest'autunno ho deciso di tornare per vedere che fine ha fatto fare il terremoto a quella villa e ai miei ricordi. Quindi un modo comunque sempre, perché di questo c'è davvero bisogno, di continuare a parlare di quel terremoto e soprattutto della ricostruzione e della situazione in cui ancora sono Amatrice tantissimi altri comuni del Lazio, delle Marche e dell'Umbria. Sempre dall'interno delle pagine della lettura del Corriere della Sera, un articolo di Giuseppe Remuzzi, che sapete è un medico ma anche un eccellente divulgatore. Il titolo dell'articolo è "Sorpresa, Marx giova alla salute, il capitalismo un po' meno". Il senso di questo titolo è che studiosi e prestigiose riviste mediche rilanciano l'importanza di un corretto servizio sanitario pubblico, come in Svezia e Norvegia, dove ci sono gli esempi migliori. la copertina di Robinson della Repubblica, che contrariamente al giornale, alla giornale La Repubblica, non ha subito un restyling perché l'aveva già avuto circa un anno fa, tant'è che questo è il numero 52 di Robinson, che è dedicato naturalmente un accenno anche al nome stesso del supplemento, L'Isola dei Tesori. Robinson compie un anno e sceglie i libri da salvare. Poi invece Alias, il supplemento della Domenica del Manifesto, una lunga recensione di Tommaso Pincio all'ultimo libro di Cormac McCarthy, Cavalli e nostalgie nel Texas di McMurtry, che è il protagonista. Ultimissima segnalazione, la copertina di Macro, il supplemento culturale di tutti i giorni in realtà, e quindi anche della Domenica del Messaggero, una lunga intervista di Katia Ippaso a Roberto Erlizka, che è uno dei più grandi attori italiani, ha 80 anni e soprattutto un attore di teatro. Il titolo scelto per questa bella intervista: L'ambizione mi divora, cerco eterna gloria. La confessione, forse la voce della verità di un attore, che spesso appunto gli attori hanno queste ambizioni, il palco fa questo, insomma, stuzzica naturalmente l'ego. Era l'ultima segnalazione per oggi, a differenza di settimana scorsa in cui mi sono sbagliata. Ringrazio Carmelo Lauricelli in regia, grazie a tutti voi che ci avete mandato messaggi così presto la mattina. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.